Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Ho pensato di iniziare la settimana con il professor Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università di Milano. Professor Pregliasco, buongiorno. Eccoci qua, un buongiorno a tutti. Professore, iniziamo la settimana con lei perché questo è il momento in cui dobbiamo essere responsabili, lucidi, consapevoli. Purtroppo sì. I casi che aumentano, i ricoveri in terapia intensiva, ancora a un livello non elevato, però siamo davvero in tempo per poter convivere al meglio con questo virus, perché purtroppo questo è il messaggio da far passare, un nuovo galateo di comportamenti che ci permetta di non avere situazioni che possono arrivare a quello che ci è successo in primavera di quest'anno. Non bisogna lasciarsi prendere da quell'ansia esagerata nei confronti del virus. Dobbiamo conoscere sapere che possiamo, rispettando naturalmente le indicazioni che ci vengono date, quindi le mascherine, il distanziamento fisico, l'igiene delle mani, possiamo fare la nostra parte. E dobbiamo, professor Pregliasco, mi sembra anche un po' vincere quella che, con un'espressione che non è troppo felice ma racconta lo stato d'animo di molti di noi, vincere la stanchezza da emergenza. È così, perché ci si abitua al rischio in tutte le situazioni, anche quando si impara a guidare, poi via via si diventa troppo, diciamo, sportivi. Sì. E magari non si stanno attenti ai cartelli, ai gialli, passa lo stesso. Ecco, quello che succede con le mascherine, con le altre cose che abbiamo ben realizzato durante il lockdown, ora ci sembrano superflue, ma invece, come per la guida, sempre bisogna essere attenti con il buon senso, come giustamente ha anticipato. Ci vuole una serenità, ma essere vigili, essere in qualche modo pronti a situazioni che potrebbero diventare anche più pesanti. Quindi è possibile che ci vengano attuati dei lockdown, diciamo, sartoriali, e già qualcosa l'abbiamo già visto, no? In alcune regioni, e questo sarà ciò che potrebbe capitarci, ma dobbiamo, diciamo, organizzarsi per il peggio, soprattutto far sì che i dipartimenti di prevenzione possano continuare a lavorare e a fare un ottimo risultato, come sinora c'è stato, di controllo dei casi, di individuazione dei contatti stretti, perché questo è l'elemento fondamentale. Questo virus è un virus che causa, nella gran parte delle malattie, dei casi, malattie banali o del tutto inapparenti, però sta qui la sua forza e la sua perfidia. Questo virus ha la sua forza, paradossalmente, nel fatto che la gran parte dei casi che determina sono casi assolutamente irrilevanti o addirittura, come sappiamo, soggetti asintomatici, che purtroppo contagiano, e sono le persone che all'inizio di questa epidemia noi non avevamo contezza e hanno causato poi in quota parte quel disastro che abbiamo visto nei mesi di marzo e aprile. Professor Pregliasco, mascherine anche all'aperto, una decisione che rende esplicito un messaggio che dobbiamo interiorizzare e che dovrebbe, e questo ci permette anche di essere più responsabili. Adesso ci sono leggiamo male, mascherine possono nuocere, e allora all'aperto, se però incontro qualcuno la tiro su, la tiro giù, ma allora la mascherina, se la togli e la metti con le mani è peggio che non avere. Professore, apriamo e chiudiamo il capitolo mascherina. Assolutamente, la mascherina è un elemento importantissimo di questa triade di cose che dobbiamo continuare a fare. Ci è voluto l'obbligo, ma a questo punto io credo che davvero ci sia stato necessario emanarlo, perché così viene chiaro che questa mascherina va portata sempre e non, come giustamente veniva detto, togliendola, mettendosela al polso, al gomito, che lì non protegge. Quindi davvero utilizziamola con sistematicità, perché insieme al lavaggio delle mani davvero è elemento fondamentale per ridurre la diffusione di questo virus. Tra l'altro, grazie a queste misure antivirus, anche l'influenza potrebbe essere più lieve, professor Pregliasco. Sì, questo è il dato che ci arriva dall'Australia, dove pur in presenza di virus nuovi, quindi con una potenziale diffusività per determinare una stagione anche di medio-medio-alta intensità, in realtà hanno appena finito il loro inverno e ci hanno detto appunto che la stagione è stata assolutamente irrilevante, proprio sicuramente grazie ai provvedimenti per il Covid. La comunità scientifica è concorde nel consigliare il vaccino antinfluenzale per tante ragioni. Le vogliamo ripetere brevemente, professor Pregliasco, ma poi le chiederei se siamo pronti a soddisfare le richieste. Sicuramente c'è stata un'impennata, e meno male, di richieste, perché ne abbiamo parlato anche negli anni scorsi. Si arrivava solo al 50% degli ultra 65 anni che avevano voglia di aderire a questa vaccinazione. Quest'anno c'è una richiesta che speriamo sia davvero superiore. Purtroppo la produzione di questi vaccini deve avvenire con grande anticipo e quindi le aziende si sono ritrovate proprio nel bel mezzo del momento della produzione di questi vaccini a dover incrementarli. Però grazie purtroppo alla grande richiesta hanno dovuto in qualche modo avere una ridistribuzione dei vaccini. In questo senso però il Servizio Sanitario Nazionale per tutti i soggetti a rischio in tutte le regioni ne ha avuti, direi, a sufficienza per una copertura superiore al 75%, che è l'obiettivo. Probabilmente qualche problema ci sarà soprattutto all'inizio della campagna per chi vuole acquistarlo in farmacia, perché le farmacie sono rimaste spiazzate da questa carenza di vaccini. Ma quest'anno, come sempre, come ogni anno, il vaccino va fatto, perché l'influenza è comunque una malattia che causa i suoi guai legati a ospedalizzazioni e anch'essa a mortalità, ma soprattutto quest'anno, è ovvio, permette di ridurre quel problema di diagnosi differenziale e addirittura alcuni studi ci dicono che protegge anche dal Covid, cioè la stimolazione immunitaria della vaccinazione incrementa la capacità di risposta anche verso questo nuovo virus. Professor Pregliasco, c'è anche un'altra cosa che possiamo fare ed è scaricare l'app Immuni per favorire il tracciamento. 7 milioni di italiani l'hanno fatto, non sono abbastanza, dobbiamo vincere alcune resistenze nei confronti di questa app, che invece è assolutamente sicura e permette di intercettare sul nascere i focolai. Assolutamente, purtroppo siamo ancora in pochi, ma direi che bisogna superare il problema di privacy, non c'è nessun problema, è molto meno che quando scarichiamo un'app o ci iscriviamo a un social, quindi davvero non vedo chi non vuole, i motivi reali di chi non vuole scaricarla, un qualcosa che serve a se stesso per avere la contezza di un possibile contatto a rischio, ma anche una sicurezza per gli altri, per potersi attivamente poi procedere alla quarantena, all'isolamento e quindi proteggere la comunità. Grazie professor Pregliasco per essere stato con noi, per aver iniziato la settimana insieme. Grazie, buon lavoro. E buona settimana a tutti. E noi continuiamo ad allenarci insieme per questa nuova quotidianità. Abbiamo parlato di coronavirus insieme al professor Pregliasco, della necessità di essere attenti, responsabili, lucidi, di mantenere il distanziamento fisico, di usare correttamente la mascherina, delle regole di igiene assolutamente importanti, di scaricare l'app Immuni. Noi vogliamo aggiungere un altro elemento, un altro dato. In questo periodo un po' difficile, uso un eufemismo, a volte ci sentiamo fragili, ci sentiamo appesantiti emotivamente, un po' a disagio. Bene, allora noi cosa abbiamo pensato? Di allenarci insieme, di cogliete questa opportunità insieme ai ricercatori del centro della Cattolica Engage Minds Hub. Ogni settimana abbiamo un gruppo di psicologi che ci aiuta con degli esercizi molto semplici, stiamo lavorando sulle parole. Poi stiamo lavorando sulle immagini, insieme a noi la professoressa Gwendalina Graffini, Andrea Vitali. Che fare? Venite con noi, allenatevi insieme a noi. Basta andare sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, trovate i compiti e giorno dopo giorno